Letture di Radio 24. Fumatori si nasce o si diventa? Secondo una recente ricerca, la predisposizione al fumo sarebbe ereditaria. Gomme, ipnosi, cerotti, agopuntura. Chi, dopo tanti tentativi, non riesce a smettere di fumare non deve avere sensi di colpa. Fumatori si nasce, almeno in parte. Il fascino delle sigarette e il pericolo di sviluppare un tumore ai polmoni sono parzialmente scritti nel patrimonio genetico che ciascuno di noi eredita dalla nascita. Anche se, sia ben chiaro, la volontà del singolo di accendersi una bionda fa pur sempre la sua parte, quel fumatore su cinque che persiste non si deve sentire colpevole. E le autorità sanitarie che, con leggi o campagne varie, vacillano contro gli incalliti, non dubitino. C'è un gene di mezzo che non sa leggere le scritte minacciose sui pacchetti di sigarette. Un gene scoperto dagli italiani che sta attirando l'attenzione degli Stati Uniti, dove le malattie legate al vizio del tabacco continuano a guidare la classifica delle cause di morte. Da anni si indagava su una predisposizione, ma il lavoro iniziato da studi condotti in migliaia di individui da grossi consorzi internazionali finora non aveva portato a individuare il gene responsabile. Il GOL è riuscito ai ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, diretti da Tommaso Dragani. CHRNA5 è il nome del gene identificato. È lui il responsabile della maggiore predisposizione all'abitudine al fumo di sigaretta ed è lui che espone a un maggior rischio di cancro polmonare. Il lavoro, finanziato dall'Associazione per la ricerca sul cancro, è stato pubblicato dal Journal of the National Cancer Institute. Ma come mai si cercava questo gene? Per avere un bersaglio da colpire nella lotta alla dipendenza da nicotina e per mettere a punto supporti psicologici più intensi. Insomma, per aiutare anche chi vuole smettere ma non ci riesce. Prima ricaduta pratica. Si può fare il test del DNA e individuare chi è fumatore dalla nascita. E si possono creare farmaci diretti contro CHRNA5 da destinare a persone selezionate con test genetico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Pappagallo «Se il vizio delle sigarette è scritto davvero nel DNA» dal Corriere della Sera del 12 ottobre. Letture di Radio 24. Sono passati 20 anni da Italia 90 e molte delle opere che avrebbero dovuto essere costruite per i mondiali di calcio non sono mai entrate in funzione, con un costo finale più che raddoppiato rispetto al preventivo iniziale. È chiuso da un sacco di tempo. Le ferrovie dello Stato l'hanno venduto per un pezzo di pane. Ci faranno, chi dice, un albergo, un centro commerciale. Andrea gestisce l'Airbar di via Pellegrino Matteucci al quartiere Ostiense. Probabilmente Andrea dovrà cambiare l'insegna del locale. Il bar ha preso il nome dall'Air Terminal, costruito per i mondiali di calcio del 1990 per collegare con il treno Roma all'aeroporto di Fiumicino. È in stato di abbandono. Su un lato c'è una confusione di materassi, poveri indumenti, borse, tra sterpaglie e un odore nauseabondo. È il rifugio di stranieri senza tetto. Presentato come uno dei gioielli per le notti magiche di Italia 90, l'Air Terminal ha funzionato pochissimi anni, perché decentrato e scomodo. Fiumicino è costato 20 miliardi di vecchie lire nel 1990, circa 10,32 milioni di euro. 20 anni dopo è stato venduto dalle Ferrovie dello Stato per una somma probabilmente inferiore al costo, senza calcolare interessi né rivalutazione monetaria. La gara nel 2006 è partita da una base di 10,82 milioni per un'area di 6.680 metri quadrati su due livelli, con la facoltà per l'acquirente di aumentarla di 3.800 metri. Le FS interpellate non hanno reso noto il prezzo di vendita. Un portavoce si è limitato a dire che la somma è superiore a 8 milioni. La cessione è stata perfezionata il 29 dicembre 2009. Il compratore è la società romana GEAL SRL, di un imprenditore della grande distribuzione a prezzi scontati, Antonio Faranda, marchio Tuodì. In giugno è stato annunciato un accordo per realizzare all'Air Terminal, entro il 2011, la filiale romana di Italy, centro del gusto con 11 ristoranti sul modello del centro fondato all'Ingotto di Torino nel 2007 da Oscar Farinetti, che ha inaugurato un centro Italy anche a New York. Intanto i metri quadrati dell'edificio privatizzato sono stati aumentati a 12.000 su 4 piani. La venieristica struttura all'Ostiense è un monumento alla dissipazione, come per altre costose opere realizzate per i grandi eventi sportivi. Il catalogo di Italia 90, un evento per il quale lo Stato ha speso per tutte le infrastrutture 7.320 miliardi di vecchie lire, più del doppio del preventivo, 3,5 miliardi, è zeppo di sprechi. Spese alle stelle e cattiva programmazione anche per gli stadi, rinnovati o costruiti ex novo sotto la supervisione del comitato organizzatore, presieduto da Luca Cordero di Montezemolo. Per i templi del calcio sono stati spesi 1.250 miliardi di vecchie lire, quasi 650 milioni di euro. Secondo la relazione al Parlamento del Ministero delle Aree Urbane, per l'Olimpico di Roma le spese hanno raggiunto i 225 miliardi di lire, 145 in più degli 80 stimati inizialmente. Per il Meazza di Milano i lavori sono costati 170 miliardi rispetto ai 90 del preventivo. A Torino è stato costruito un nuovo impianto, lo Stadio delle Alpi. Da una previsione di 60 miliardi la spesa è salita a 187. Lo stadio però si è rivelato inadatto al calcio perché gli spettatori sono troppo lontani dal campo. La Juventus, che ha deciso di realizzare un proprio stadio acquisendo l'impianto dal comune con un diritto di superficie per 99 anni, ha stabilito di ricostruirlo senza pista di atletica, in modo che gli spalti siano vicini al campo. Così, appena 20 anni dopo la costruzione, il Delle Alpi è stato demolito e si spenderanno 105 milioni di euro per fare un nuovo stadio. I costi sono a carico della Juventus, che ha ricevuto un mutuo di 60 milioni a tasso agevolato da una banca pubblica, il Credito Sportivo. Anche le altre grandi società di calcio vorrebbero un nuovo stadio, mentre una lobby che attraversa tutti i partiti preme perché i costi vengano scaricati sullo Stato. Ancora a Torino c'è lo scandalo degli impianti per le Olimpiadi invernali del 2006. Emblema dello spreco, i 5 trampolini di salto di paragelato. Quando furono costruiti fu scartato il progetto di una struttura che avrebbe potuto essere smontata dopo i giochi. Si preferì una costruzione in cemento armato per proseguire, si disse, l'attività agonistica e creare una scuola di saltatori. Mezza montagna è stata disboscata, è stato necessario canalizzare un tratto del torrente Chisone, oltre al danno all'ambiente una spesa di 34,3 milioni di euro. Oggi i trampolini sono inutilizzati. La manutenzione costa 1.161.226 euro all'anno. Inutilizzati anche quasi tutti gli altri impianti alpini di Torino 2006. Chiuso l'albergo da 120 posti alla base dei trampolini, inutilizzati il biathlon a San Sicario, costato 25 milioni, e la pista notturna di slalom di Sestriere, 7 milioni per l'impianto di illuminazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianni Dragoni, Incubi da notti magiche, dal numero 23 del mensile IL, Intelligence in Lifestyle. Un neonato ride 300 volte al giorno, un cinquantenne solo 3 volte. Una ricerca rivela che con l'età si riduce drasticamente la voglia di ridere e gli uomini anziani sono 4 volte più brontoloni delle donne. Più si diventa vecchi, più si amano le indecenze. Virginia Woolf aveva capito tutto. Che c'è infatti di più indegno del non ridere mai? Di brontolare senza sosta, di impugnare carta e penna solo per scrivere una lettera di rimostranze ai vicini o alla compagnia del gas, di preoccuparsi unicamente per la propria salute e i propri quattrini, che poi è esattamente ciò che capita ai britannici e chissà, forse non solo a loro, una volta superata la soglia dei 52 anni. A quell'età, infatti, il senso dell'umorismo muore, caput. Ciò che resta da vivere ai sudditi di Sua Maestà è dunque un lento declino verso il broncio. O almeno questa è la conclusione di uno studio condotto dai ricercatori dell'Università di Glamorgan, in Scozia. Le risate, ha spiegato al Daily Telegraph Leslie Arbridge, ricercatrice presso l'Università Scozzese, sono purtroppo inversamente proporzionali all'età. Prima dei 20 anni ridiamo il doppio rispetto a dopo i 50. I nostri risultati indicano poi che a partire dai 52 è tutta una discesa. I dati, d'altra parte, parlano chiaro. Un bebè arriva a ridere fino a 300 volte al giorno, ma la vita diventa presto meno divertente. Già un adolescente ride solo 6 volte al dì. Sempre meglio che dai 20 ai 30, dove si ride in media solo 4 volte al giorno. Tra i 30 e i 40 invece le cose migliorano. Le risate salgono a 5. E questo solo per merito dei bambini piccoli che si hanno di solito intorno a questa fascia d'età. Poi, come dicevamo, il crollo. A 50 anni, infatti, si ride 3 volte al giorno, mentre per gli ultra sessantenni la media si riduce a 2,5. I peggiori sarebbero però gli uomini, che dai 60 anni in su sono ben 4 volte più brontoloni delle donne. Ora, tutta questa serietà non è peraltro salutare. È importante ricordare, dice ancora Harbridge, che ridere fa bene. Rilascia endorfine e una risata tutti i giorni è utile a combattere lo stress. I cinquantenni oltretutto ne avrebbero un gran bisogno. Passano infatti circa 41 minuti al giorno ad angustiarsi su denaro e condizioni di salute e la maggior parte di loro si è giustificato dicendo che è troppo occupato a pianificare la pensione per ridere. E con i tagli alla spesa pubblica annunciati dall'attuale governo potrebbero avere anche ragione. Detto questo, secondo Oscar Wilde, il dramma è un altro. Per lo scrittore irlandese, infatti, il male non è che fuori si invecchia, è che molti rimangano giovani dentro. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mattia Bernardo Bagnoli, Dopo i 52 anni non si ride più? Dalla Stampa dell'11 ottobre.